La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Messaggio nella bottiglia in arrivo per la guardiana del faro. Per fare contenta la ragazza che amavo, ho cambiato carattere, ho cambiato abitudini, l'ho compiaciuta in tutto. Ho rispettato i suoi tempi, anche se mi è costato molto. Il primo anno nemmeno un bacio. Lei diceva che prima voleva essere sicura dei miei sentimenti e che le piacevano solo gli uomini delicati. Poi ha cominciato a demolire i miei studi. Ero al terzo anno di medicina ed ero molto portato per la materia, ma lei storceva il muso. Non voglio un marito dottore, non c'è mai, appartiene sempre agli altri. L'ho accontentata anche in questo e mi sono iscritto a ingegneria, facendo molta fatica, ma pur di avere un suo sorriso non mi pesava nemmeno tanto. Mi ha fatto lasciare i miei amici, era gelosa di tutti e li disprezzava, e quelli che non ho lasciato io mi hanno lasciato loro perché lei li trattava con ostilità, la chiamavano l'insopportabile. Bene. Decidiamo di sposarci, in chiesa, come voleva lei, anche se io non sono credente. E all'ultimo mi lascia per una specie di malandrino, un buono a niente, molto maleducato, che la comanda a bacchetta. Ora mi trovo tutto trasformato per farle piacere. Non so più chi sono. E questo mi addolora, più della sua assenza. Egidio. Ti rispondo raccontandoti la trama di un film. Un film che si chiama Lo sconosciuto. È un film muto del 1927. Girato da Todd Browning, l'autore di Freaks. Alonso è la stella del circo ed è il grande campione fra i lanciatori di coltelli. E il pubblico corre a vederlo mentre fa sibilare le lame attorno alla sua assistente, Nanon, e ogni sera traccia il contorno del suo corpo, del suo bellissimo corpo, anche con un segreto piacere, perché lui è innamorato di Nanon. E Nanon non trema. Nanon ha una fiducia illimitata in lui, illimitata come la sua bravura. Anche perché non ho detto che Alonso non ha le braccia. Alonso lancia i coltelli con i piedi e quindi è doppiamente un grande virtuoso di questa arte. Lui, Alonso, non ha mai parlato a Nanon del suo amore, ma non c'è bisogno, perché la ama con lo sguardo, quindi è chiaro che la ama. E lei lo corrisponde, perché per lei Alonso è l'ideale. In quanto è privo di ciò che più lo spaventa in un uomo, le braccia. Non si sa per quale trauma, e nel film non verrà mai detto, ma si capisce che ci deve essere qualcosa sotto di terribile, Nanon non vuole essere toccata, ha orrore delle carezze, ha orrore dell'abbraccio. Invece con Alonso non c'è questo pericolo, a parte che poi le piace per tante ragioni. Alonso è diverso da chiunque altro, è disinvolto, elegante, non chiede mai niente a nessuno, non chiede aiuto, coi piedi sa fare tutto, coi piedi fuma, beve, scrive e addirittura accoglie le persone o manda al diavolo perché i suoi piedi parlano. A dispetto di questa menomazione è l'uomo più autorevole del circo, ancora più autorevole del padre di Nanon, che lo invidia sotto sotto e lo detesta, e ancora più di Malabar, che è l'adone del circo, forzuto e anche lui innamorato pazzo di Nanon. Alonso si accorge che Malabar è innamorato di Nanon e allora cosa fa? Finge, nasconde la sua gelosia e col sorriso, facendolo amico, gli dice: senti, ma tu devi partire all'attacco, tu devi essere risoluto se non brutale, tu la devi abbracciare di colpo e vedrai che la conquisti, perché a lei piace così, a lei piace soltanto l'uomo uomo. Malabar, che questo muscoloso, che è anche un po' tonto, immediatamente segue il consiglio di Alonso, abbrancica lei al volo e lei lo respinge con orrore e Alonso ride nell'ombra. Da quel momento Nanon non vuol più saperne di Malabar, lo sfugge, non gli rivolge più neanche la parola e si avvicina sempre di più ad Alonso. Visto che lui non può abbracciarla e quindi lei non ha paura di lui, è lei che lo abbraccia, teneramente, lo abbraccia come una bambola. E in questo gesto li sorprende il padre di lei, che è folle di gelosia di questa ragazza. e che forse ha a che fare con la sua nevrosi. Il padre di Nanon perde talmente la testa che frusta violentemente il povero monco. Il povero monco è nella sua roulotte, si spoglia e noi scopriamo il suo segreto. Alonso le braccia le ha, e come, le tiene strette strette, nascoste in un busto. E anzi ha anche una certa sovrabbondanza, perché nella mano destra ha due pollici. Chi è Alonso? Alonso è un criminale. È un pericoloso criminale ricercato dalla polizia. E per sfuggire alla giustizia si è rifugiato nel circo prendendo questa identità fittizia dell'uomo mutilato. E quindi in questo modo si arenano tutte le indagini della polizia, perché come si fa a riconoscere questo criminale in quest'uomo così mutilato? E grazie a questo trucco, tra l'altro, lui durante i viaggi del circo continua indisturbato a fare le rapine nei dintorni. Dove arriva il circo c'è una rapina, ma ci sono indagini su tutti, meno che su Alonso, naturalmente. Alonso è al di sopra di ogni sospetto ed è anche al di sopra di ogni scrupolo. La stessa notte del giorno in cui il padre di Nanon lo ha frustato, Alonso si vendica, si nasconde nella roulotte del padre e appena arriva lo strangola. Mentre sta scappando, in quel momento sopraggiunge Nanon. Lui scappa, ma lei fa in tempo a vedere la mano con due pollici. E allora arriva la polizia che, dietro le indicazioni della ragazza, controlla i pollici di tutto il circo, mentre Alonso fuma coi piedi in un angolo, indisturbato, in silenzio. Adesso che è rimasta senza padre, Nanon, continuando a sdegnare il bracciuto Malabar, si attacca sempre di più ad Alonso, finché gli chiede se vuole sposarla. Beh, Alonso non ha mai sognato altro, è il momento della sua massima felicità, però ha paura, perché se lei scopre che ha le braccia, scopre l'inganno, lui diventa un uomo come gli altri e quindi lo lascia. E in più adesso, dopo il delitto, vedendo i due pollici, capirebbe anche chi è l'assassino di suo padre. Alonso non vuol perdere Nanon a nessun costo e così decide di eliminare l'ostacolo. Le dice: certo, ci sposiamo, però aspettami, devo fare un viaggio. E parte. Va da un chirurgo della malavita e si fa amputare le braccia, per amore di lei. Naturalmente la convalescenza è molto lunga, molto dolorosa, ci mette parecchio a tornare, però finalmente eccolo guarito, con le ferite rimarginate, e può finalmente tornare al circo dalla sua donna, che ora sarà davvero sua. Ma al circo ha una sorpresa. Nanon, intanto, da quando il padre è morto, ha vinto la sua paura. Non ha più paura delle carezze né degli abbracci. E Alonso la trova tra le braccia di Malabar, che con la sua forza l'ha conquistata. Il film finisce con la risata di Alonso, la risata più atroce, più sconciamente disperata della storia del cinema. Una risata sulla impossibilità dell'amore, senza riparo, senza riscatto. Una risata che è perfino sguaiata, anche se non si sente, nonostante il muto, continua a risuonarti dentro. Una risata che ci deride tutti, che deride la inadeguatezza degli sforzi umani e soprattutto, e qui vengo alla tua lettera, la follia degli amanti troppo delicati e troppo remissivi, che rinunciano a sé per essere amati e si trasformano in fantasmi, da pirati che erano, e perdono tutto, se stessi e l'altro, come nel verso di Emily Dickinson: il malese ebbe la perla, non io, ovvero il pirata. Nell'anima ferrata a un dolce ricordo che d'oro potrà avere. La guardiana del faro. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, l'antropologa e giornalista Genevieve Macaping è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Ah, Genevieve Macaping, detta Jenny, la mia amica antropologa che viene dal Camerun e che vive da moltissimi anni in Calabria. Ma l'ultima volta mi avevi detto che stavi andando via dalla Calabria, che stavi facendo un'emigrazione interna. Ci sei ancora? No, sono proprio alla porta con le valigie, tutto, la mia cucina, il mio letto, tutto. Vado via definitivamente dalla Calabria dopo 30 anni e questo... E per un antropologo è molto interessante, ovviamente dopo i pianti dei miei amici, di tutta la Calabria che mi vuole bene, dei miei studenti. Vado via perché rimanere significherebbe prostituire la mia anima, significherebbe prostituire la mia anima, ecco, per non dire prostituirmi intellettualmente. E questo ha significato anche un'altra cosa: siccome tutti i bravi figli della Calabria sono costretti ad andare via, bene, questa è una bella prova che io sono calabrese e non lo potrà mai discutere nessuno. Senti, aspetta, però che cosa è successo veramente? Perché dici prostituirmi? No, è successo che dopo 30 anni di vita qui, credo modestamente di aver dato qualche cosa alla Calabria e credo anche qualche cosa di aver ricevuta, però molto faticata. Allora, quando tu insegni all'università, hai insegnato per quanti anni all'Università di Calabria? All'Università della Calabria 14 anni, poi è arrivata la legge della Gelmini, ci hanno tagliato fuori, quindi quest'anno, per chi non lo sapesse, ho accettato di insegnare gratuitamente perché ritengo che avere accesso alla conoscenza sia un diritto antropologico, non solo diritto fondamentale dell'uomo, un diritto proprio antropologico. L'uomo è l'unico essere che nasce per conoscere se stesso e gli altri, quindi gli strumenti bisogna darglieli. Ma se quest'anno accetto di dare questo strumento gratuitamente e poi mi vedo tagliare la luce a casa, mi vedo non poter pagare il fitto, allora tanto meglio che vado dai miei amici in Lombardia, Mantovani, sono lombardi, e forse qualcuno di loro vota pure Lega, mi hanno messo a disposizione una casettuccia sul fiume Mincio pensando che io sia una grande donna, così la pensano, quindi devo andare via da questa terra. Senti, ma per quale cavillo, per quale disposizione della legge Gelmini poi tu dovevi lavorare gratis? Ma semplicemente perché non ci sono soldi e poi ero professore a contratto, a significare che per 14 anni non mi è stato mai possibile partecipare a un concorso, nonostante le pubblicazioni, nonostante i miei saperi. Ma non è solo quello, Barbara, perché molti sanno come funziona, come era il sistema. Anzi, io mi viene da dire che la Gelmini ha buttato via l'acqua sporca con tutto il bambino, e questo bambino, questa bambina sono io. Non mi spiace, ma la misura in cui servirà a cacciare fuori dall'università le amanti di, gli amanti di, il fidanzato di, la moglie di e tutto questo, benissimo. Ma non credo proprio, perché è stato dato il potere, un potere totale ai presidi, ai rettori, voglio dire. Mi sembra. Appunto, quindi questo è successo, vado via dalla Calabria. Per quanto riguarda invece il mio impegno nel mondo giornalistico, qui non c'è niente per me, la Calabria non ha nulla da offrirmi e quindi non lo so se è colpa sua, che cosa succede, vado via nella speranza di trovare braccia aperte altrove che mi permetta di poter pagare l'affitto di casa o quantomeno pagare la bolletta della luce. Quindi insomma, tu adesso vai all'avventura, nel senso che tu hai una casetta lì, non hai un lavoro? No, ho un lavoro, io vado all'avventura e ti dico di più, Barbara, io non ho nessun tipo di problema ad andare a raccogliere le mele in Alto Adige, lo farò molto tranquillamente, anzi l'altra volta quando raccontavo questo rideva a gran voce una grande sociologa italiana che amo molto e che rispetto, che si chiama Laura Balbo, che all'altro è il nostro ex ministro alle pari opportunità, credo durante il governo D'Alema, penso, che è una di quelle persone, insomma, per dirvela molto francamente, lei mi caverà l'occhio, ma è l'unica persona che in questo periodo, con moltissima discrezione, mi sta dando una mano. So che a lei provocherà dolore, però cosa provocherà dolore? Che tu le lo dica? Cose vanno dette, no, perché lei non ama esporsi, e però ci sono delle testimonianze che bisogna portarle, Barbara. Beh, bisogna, sì, certo, portarle. Sì, perché anche perché la tendenza è esaltare tutte le schifezze per far vedere che siamo tutti uguali, che non c'è altro che la schifezza. Appunto. Tutti uguali soltanto in questo, nell'ignominia, in basso. Non uguali davanti alla legge, per carità. Comunque io credo a modo mio che sto facendo l'unità d'Italia. Thank you. Buongiorno Barbara, grazie dell'ospitalità, ho fatto un giro, è bellissimo qui. Ah, ecco l'ospite del faro, Carlo D'Amicis. Ma cosa ti ha tirato qui, Carlo? Guarda, questo posto è meraviglioso, è la fine della terra. A me affascinano tantissimo i posti in cui ti lasci tutto alle spalle. Quando vedi davanti a te il mare, hai la sensazione che tutte le cose, tutte le persone, anche tutti i problemi siano rimasti indietro. Poi ti devi voltare prima o poi, però stare qualche minuto qui è una bella sensazione. Per caso hai riconosciuto qualcosa che conoscevi? Eh sì, perché questo luogo, il faro, mi ricorda un po' l'ambientazione di un romanzo che si chiama La guerra dei cafoni. Tu l'hai letto, immagino. Certo. Insomma, è ambientato nel Salento, che è un po' la mia terra. È piena anche di fari, di torri. Però quello che mi piace, che ritrovo qui, è proprio questo essere affacciato sul mare, questo essere finisterra, questo lasciarsi alle spalle un mondo non per dimenticarlo, ma in qualche modo per assumerne proprio sulle spalle anche il peso, come avviene nella storia di questo romanzo, dove ci sono due bande di ragazzini che si fronteggiano e che rappresentano il mondo adulto che hanno appunto dietro di loro. Sono i figli dei pescatori, dei contadini, dei pastori che vivono in questo villaggio balneare tutto l'anno e che quindi ne sono in qualche modo i padroni, e i cittadini, cioè i signori praticamente, che si contrappongono ai cafoni rivendicando il loro censo, il loro rango nel momento in cui vanno lì ad aprire. E vogliono essere i padroni. Io penso sia una lotta che si è verificata un po' su tutte le spiagge italiane probabilmente, e che nel mio immaginario vorrebbe riprendere, raffigurare e rappresentare la lotta di classe che c'è stata in Italia in quei decenni, fino proprio al 1975, che è l'anno in cui è ambientato questo libro, quando credo cominci a sbiadire, a scolorire. Questo romanzo vorrebbe essere un po' il tramonto, diciamo, attraverso appunto questi ragazzini che si contrappongono, i signori e i cafoni. Ci sono anche due capi, peraltro. Infatti, i caratteri, mi piace moltissimo i caratteri dei ragazzini. Francisco Marigno, lì per lì odioso. Il capo dei signori, che si chiama come? Lui all'anagrafe si chiama Angelo Conte Duca. Angelino lo chiama la sua fidanzata, ma lui quando lo chiama così si inviperisce, perché il suo vero nome, il suo nome di battaglia è Francisco Marigno, che viene storpiato poi dai cafoni in maligno, e lui la rappresentazione del male. Perché lui pensa ad essere identico al famoso... Sì, Francisco Marigno è un calciatore degli anni 70 del Brasile, era biondo, ai tante, non tipicamente sudamericano, e lui ne amava tantissimo la forza, l'energia, e quindi ne aveva preso un po' il nome. Insomma, erano i mondiali del 74, il romanzo, come ho detto, è ambientato l'anno dopo, nel 75. E dall'altra parte invece c'è il capo dei cafoni, Scaleno. Il bieco, il magnifico Scaleno. È obliquo, proprio come i triangoli Scaleni, che è per i cafoni quello che Marigno è per i signori, insomma, naturalmente, cioè un leader. Insomma, sono loro i due generali di questi eserciti che si contrappongono e che se le danno di santa ragione per tutta la storia. Finché poi non vengono castigati dal cambiamento. Dal cambiamento. Perché in realtà la guerra si risolve proprio attraverso la perdita dell'identità. È un po' la questione, diciamo, del romanzo, e forse anche un po' la questione di quello che spesso voglio raccontare. E molte di queste storie nascono dal bisogno, dal desiderio di aggrapparmi a una definizione dell'io che mi sfugge continuamente. Io penso sempre a quando chiedevo a mio padre: noi cosa siamo? Siamo ricchi, siamo poveri, siamo di destra, siamo di sinistra, siamo religiosi, non lo siamo. E ho bisogno disperatamente di sapere che cosa noi eravamo e dove ci trovavamo. E io invidio ancora oggi la chiarezza delle sue risposte. Com'erano? Lui era un uomo che si identificava molto nella sua professione, era un medico, era molto religioso, era democristiano anche. Era pugliese, io non sono né pugliese né romano. Sì, certo, potrei essere a mio agio in tanti posti grazie a questa mancanza di identità, però spesso il disagio è superiore all'opzione, diciamo, alla possibilità, all'opportunità. È un continuo cercare di aggrapparsi a qualcosa che ti faccia sapere chi sei, cosa sei. La guardiana del faro. Ecco, questa è una storia d'amore. d'amore dal titolo Mio Signore. Io l'ho pubblicata, sì, su un giornale che si chiama Satisfaction, qualche mese fa. Un giorno Maria si accorse che il suo vicino di casa era Dio. Lo ravvisò nel garzone della lavanderia, un attempato giovanotto senza onore, ex tossico, con le caviglie gonfie e una faccia non simpatica. Davanti al bancone, ritirando una camicia, Maria gli disse: «Signore, vi ho riconosciuto, non respingetemi». Il giovanotto Andrea era una carogna e ne rise col cognato, padrone della lavanderia e anche un poco suo padrone. E fu solo per ridere di più che accettò l'invito di lei e la sera andò a trovarla, aspettandosi qualche gioco, lercio e piccante. La casa di Maria era pulita come un altare. In presenza dell'ospite Maria fu perfettamente sincera, come davanti a una vera divinità. Gli servì la cena in silenzio. Poi lo pregò di salire su un banchetto che aveva messo sul tavolo della cucina. E quando fu lassù sul banchetto, seduto come un idolo, Maria gli si inginocchiò davanti e pregò. Lui si tratteneva dal ridere e notava ogni particolare, già pregustando il racconto che avrebbe saputo farne al cognato. E Maria gli disse: «Signore, voi sapete tutto e sapete anche quanto desideravo incontrarvi. Adesso che ho scoperto chi siete, vi adorerò. Chiedetemi qualunque cosa e io la farò». Andrea sogghignava e soprattutto per poterlo raccontare al cognato le disse: «Fammela vedere». Maria avvampò: «Ah, signore, fra tutte le cose che potevate chiedermi, proprio questa? Esistono tante altre prove. Camminare su carboni ardenti, ficcarsi chiodi, i digiuni, gli sputi, i cilizi. Sì, lo so, anche con Teresa, anche con Caterina, i vostri rapporti sono stati sensuali. Però così non l'avete mai fatto con nessuno. Già, voi siete un dio moderno, ma io mi vergogno». E lo guardò con gli occhi più sinceri del mondo, esitando. Era così semplice e luminosa la sua fede che Andrea si vergognò e le rispose: va bene, era per metterti alla prova. Tanto poi al cognato glielo poteva raccontare lo stesso. Anzi, Maria, credimi, ne ho abbastanza delle vostre nudità. Mi disgustano». Era vero. A casa del cognato stavano in cinque in due stanze e regnava un'impudicizia da lager. Inginocchiata, i capelli sciolti che sfioravano i piedi di lui, Maria gli rese conto della propria vita e cominciò il culto. Tornando a casa, Andrea compì una grande impresa, deluse il cognato. Per la prima volta in vita sua, ebbe il coraggio di resistergli. Gli fece un raccontino di maniera che lasciò l'altro molto insoddisfatto e col sospetto che Andrea non fosse più il suo schiavo. Infatti adesso Andrea aveva un segreto. Prese ad andare da Maria una volta alla settimana. Nel bagno parato di bianco tra i piccoli sempreverdi, Maria lo lavava, gli tagliava le unghie, i duroni, con un'immensa pietà per il suo corpo, disastrato dalla cattiva alimentazione e dai cattivi pensieri. Maria si chinò su di lui come una madre, gli cambiò la dieta, affinandogli le caviglie e la coscienza. Maria era compassionevole per quella oscura incarnazione. Era un sacrificio senza precedenti. Nessuno sapeva della sua divinità all'infuori di lei. Comodo Cristo, che gli era costato? Era venuto al mondo bello, longilineo, discepoli, gloria, folle, martirio, riflettori. Ma incarnarsi oggi, in Fenestrieri Andrea, ignoto e non abbiente grassone, era una insuperabile prova. Stavolta Dio si era davvero incarnato nell'ultimo, il più umile, uno di quelli che non sarebbero mai andati alla televisione. Ed era orgogliosa d'essere l'unica testimone di un Dio perdente. Dopo averlo così rinnovato e mondato, gli faceva indossare una camicia fragrante da Dio e lo metteva sul banchetto. Maria era una così grande devota che Andrea, poco a poco, diventava un Dio sempre più giusto. La guidava nei suoi problemi e anche lui si confidava, ogni tanto, sfogando la sua amarezza. Il cognato che lo sfruttava, ma soprattutto Maddalena, la barista, che non gliela dava, lo faceva piangere. Maria era indignata che una donna potesse rifiutarlo. E un giorno gli domanda: «Ma voi a questa, a Maddalena, gliel'avete detto che siete Dio?» Andrea la guardò con indulgenza e con divina mestizia disse: Ma sai, Maria, mica lei è come te. Se le dico che sono Dio, mi fa rinchiudere. C'era una grande differenza fra Andrea sul banchetto e Andrea giù dal banchetto. Quando assumeva la natura divina, purificato, con la camicia di bucato, la sua sensibilità morale era grande. Ma una volta sceso, tornava a essere bugiardo e ladro. Rubava i soldi a Maria dalla borsetta per andare a farsi e negava. Per queste mancanze, Maria lo amava con maggiore trasporto. Ammirava i segni di indegnità più delle ispirate parole sul banchetto. Maria sgobbava il doppio per provvedere agli ammanchi e pensava: si è caricato proprio tutte le dannazioni nostre, non se n'è risparmiata una. Anche in questo dà dei punti al superbo ragazzo di Galilea. Andrea è miserabile fino in fondo. Signore, quanto dovrò soffrire per voi, per riscattare le vostre sofferenze? Un giorno, mentre lo adorava in ginocchio, Maria si rifiutò di togliersi il fazzoletto dalla testa. Andrea si era abituato alla carezza dei suoi lunghi capelli sui piedi e glielo ordinò. «Avanti, togliti sto fazzoletto!» Maria alla fine obbedì, se lo fece scivolare sul collo. E lui sobbalzò. Si era rapata a zero. «Maria, eri già tanto brutta! Che hai fatto?» «Signore, un sacrificio per dividere la vostra croce. Voi state perdendo i capelli e io niente.» La collera divina esplose. «Basta! Non ne posso più di martiri e martiri! Lo vuoi capire che sono un Dio diverso dall'altro? Io sono un Dio di luce e gioia. Senti, Maria, se mi vuoi far contento, cerca di diventare più bella. Ama il corpo tuo come te stessa. Devi sapere che anche Dio si perfeziona nei secoli. Sono cambiato. L'altra volta ero esibizionista. Ero avido di dolore fisico, non mi bastava mai. E poi... state sempre a misurarvi con me. Volete sempre superarmi. Ma pensate un po' alle vostre disgrazie. Ma pensa alla tua insonnia, al tuo enfisema, al tuo naso lungo. Il padre mio v'ha già dato una condizione così penosa, ma ci volete pure fare la giunta. Pura vanità. Anche i santi. Per questo li ho mandati tutti all'inferno. Se credi in me, fatti ricrescere i capelli. Truccati. Metti un vestito a fiori. In seguito a questa lezione... Maria divenne poco a poco più bella. Per strada ormai, prima era la brutta del quartiere, e invece adesso ormai le fischiavano dietro. E anche Andrea era cambiato. Nobilitato da questo gioco segreto, s'era fatto più agile e saggio. Fu la bellezza a tradirli. Il cognato sospettò qualcosa. Scoprì che si incontravano. Provò a ridere di Maria con Andrea. Si ebbe un cazzotto in faccia. La situazione si fece difficile. Il paese chiacchierava. Andrea non lo sopportò. Ormai era un uomo deciso e andarono via insieme in un altro paese. Per compensarlo della cattività presso il cognato, Maria lavorava per entrambi, mentre continuava ad adorarlo su un altro tavolo di un'altra cucina. Dopo la maldestra avance del loro primo incontro, Andrea non aveva più tentato confidenze carnali con la sua devota. Troppo gli piaceva essere adorato. Quando Maria lo pregava, il grosso seno poggiato sul tavolo, Andrea si sentiva a metà tra una feroce erezione e un pianto dirotto. Non seppe mai decidersi e si innamorò di un'altra. Giovane, bella, con qualche soldo. Partì con lei. Maria cercò di non essere gelosa. Lui poteva fare quello che gli pareva. Intanto era un uomo. Poi era Dio. Si tremò per un attimo. Mentre si dicevano addio, gli chiese: «Ma a lei glielo avete detto?» Lui la rassicurò col più tenero dei rimproveri. Questo le bastò. Completamente l'appagava l'inestimabile grazia d'averlo lei sola, in tutto il mondo, riconosciuto. Solo che una volta rimasta sola, essendo di testarda formazione cattolica, la sua sete di martirio prese il sopravvento. Vi si abbandonò. Ora che non c'era più lui, a predicarle il nuovo Vangelo della salute, si lasciò dolcemente, gloriosamente, morire di fame sotto il lieve sole del giardino, nella sua memoria. Andrea non ne seppe nulla. Intanto si era stancato dell'altra e prese un treno per tornare da Maria e farsi adorare. Arrivò giusto in tempo per il funerale. Pioveva. Un funerale di paese. Qualche bigotta, due fornitori, un cane. Tra la piccola folla Andrea notò un bel ragazzone baffuto. E quello chi è? Un tuffo al cuore, un sospetto. Dopo la cerimonia il ragazzo gli si avvicinò chiedendogli con naturalezza: «Lei è Dio, vero?» «La defunta», rispose Andrea. «Mi credeva tale», con molta distanza e con molta diffidenza. La folla si sciolse. Si incamminarono insieme, figurine solitarie nel grigio paesaggio. «Di me disse il ragazzo, credeva che io fossi l'arcangelo Gabriele». «Ah sì? E che facevate?» «Oh, niente di importante. A me dedicava un culto marginale. Ero uno dei tanti. Maria era strettamente monoteista e lei è rimasto sempre l'unico, fino alla fine». Andrea si fermò, pensoso. «Lo sa, Gabriele, questa mia seconda incarnazione mi è costata più della prima. Allora ci fu la grande sbornia della tortura e allora ci fu il contatto più appariscente con la condizione umana. Ma vede, Gabriele, essere separato da chi ami, io questo dolore non lo avevo mai conosciuto. Questo dolore fa di me un uomo». E il giovanotto squallido e stempiato, col suo impermeabile l'ombrello, si sollevò da terra e saliva, volando, saliva, ascensione in un novembre piovoso, nei cieli, musica di Paolo Conte. Chiamami adesso che non ho più niente da dire, ma voglio parlare lo stesso insieme a te. Voglio provare io a descrivermi. Chiamami adesso che ho bisogno di te. La guardiana del faro. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Cara Barbara, siamo sposati da 15 anni e ci amiamo come il primo giorno. Però quando siamo con gli amici, lui non mi fa le coccole, mai un bacio in pubblico. Io ci terrei che gli altri vedessero cosa c'è fra noi. Invece sembriamo una coppia qualunque. E a giudicare da fuori, magari gli altri amici sposati che frequentiamo sembrano più felici di noi. Io gli chiedo sempre questa prova d'amore e lui niente. Manuela. No, senti Manuela, adesso la prova d'amore sarebbe diventata fare le smancerie in pubblico? Pubblicizzare l'amore? Ma che amore è se ha bisogno di essere mostrato? Agli altri? Ma vi ha così bollito la TV che ti sembra che le cose non esistano se non sono rappresentate? Tu non vuoi il suo amore, tu vuoi l'ostentazione del quadretto familiare. È il segno che di profondità mica ce n'è tanta. Ora, l'amore tra sposi è molto raro. Ma ti pare che vai a sciuparlo così? Oggi si parla tanto di trasgressione, ma che cos'è la trasgressione? È un articolo di mercato, è un immaginario obbligato, collettivo, la morte del desiderio. Mi ricordo verso Capodanno, poco tempo fa, in rete girava un invito triste come la mutua, su un 31 dicembre speciale, in tre, in dieci, coi boa, coi canguri, con le formiche. E tra l'altro, dalle lettere che ricevo, sembra che il matrimonio sia un'istituzione fondata sulle corna. Io credo che, a ben vedere oggi, l'unica trasgressione è l'amore coniugale. Per il sentire comune, amore coniugale è un ossimoro, visto che coniuge significa spesso non colui o colei con cui ci si coniuga, ma colei e colui con cui non si fa più l'amore, e sa di noia, di compromesso, di minestra. Invece l'amore coniugale, se capita, è un colpo gobbo, è una scommessa audace. E non bisogna fare questo gioco se non si è dei grandi giocatori, perché uno su un milione vince. E vince chi è così vivo da star dietro al dinamismo del cambiamento. quelli che dicono ti amo come il primo giorno, come dici tu, ma non amano. L'amore, se c'è, non può che diventare più grande. Non puoi fare la plastica all'amore e mantenerlo come il primo giorno. Vuol dire che è morto. Nell'amore coniugale, una volta su un milione, quando funziona, c'è un sapore speciale. E non certo perché è benedetto dal prete o dal sindaco. Ha un sapore speciale perché si punta ogni giorno. È una partita senza fine, dove mai nulla è scontato. Ora, la verità è che moltissime coppie sono poliziesche, si controllano a vicenda. Magari vedi questi che separati sono pure spiritosi, simpatici. Insieme diventano musoni, si spiano, vedi che gongolano se l'altro fa una gaffe e non vedono l'ora di rinfacciargliela. Io le coppie a cena non invito mai, perché me la rovinano la cena. A meno che non siano come Filemone e Baucide, i due vecchi della mitologia che abitano in una casupola dove la porta è così bassa che gli dei si devono inchinare per entrare. E loro chiederanno agli dei quando verrà l'ora di farli morire insieme, per non vedere uno la morte dell'altro. E infatti saranno trasformati in alberi nello stesso momento. E questa è la sintesi dell'amore coniugale, la metamorfosi, lo star dietro al continuo mutarsi di sé e dell'altro. C'è un libro bellissimo, il libro di Antonio Pennacchi, Canale Mussolini, che tra le tante bellissime cose che è un cantico dell'amore tra sposi. In questo libro gli eroi fondatori, il nonno e la nonna, attraverso la durezza di una vita contadina piena di mille prove, il fascismo, la guerra, una migrazione biblica nell'Agro Pontino, loro si stupiscono ogni volta che si guardano. Lui le dice sempre «Quanto sei bella!» E lei «Dite se beo!» Fino alla fine, il loro figlio Pericle, questo selvaggio, questo anche assassino, a un certo punto sposa Armida, la ragazza delle api, è un'apicultrice che parla con le api e le api l'avvertono di tutto, dall'esito del raccolto ai fatti della storia. La prima volta che fanno l'amore, Pericle, scrive Pennacchi, si è sentito svuotarsi l'anima, entrare tutta dentro di lei e poi tornare nuova e mondata in lui. E allora ha pensato, oggi ho generato dentro di te tutti i miei figli e le mie generazioni. E così sarà. Quando in seguito Pericle sarà disperso in guerra, Armida ha una relazione con suo nipote, Paride, e rimane incinta. E testardamente sosterrà con tutti, con la massima serietà, che il figlio di Paride invece è del marito, perché lui l'ha fecondata per sempre quel giorno, come un dio della mitologia induista, o come accade nei costumi delle api. Quando la suocera sente questa storia, si ribella, non ci sta, le sembra una bugia assurda, e grida, ci crederò quando vedrò un asino che vola. E in quel momento siamo in piena guerra, il loro asino viene colpito, e scrive Pennacchi, l'anima del musso nostro volò in cielo. A riprova che l'amore è surrealista, perché la razionalità sa essere così povera. E come si riconoscono le coppie che si vogliono bene? Perché non lo danno a vedere, perché non ostentano il quadretto familiare, non si vantano. Li scopri dalla luce, dalla semplicità, dal seguirsi col pensiero, dal ridere con le stesse cose. Se matrimonio deve essere o così o niente. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, la Maria delle Acciughe è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Oh, ecco la Maria, con la sua corona splendente di acciughe. Maria delle Acciughe, racconta. Maria delle Acciughe racconta che ho un rapporto molto speciale con il pesce in salamoia e il pesce sottosale. Perché Maria delle Acciughe è perfetto per me come nome, perché fin da piccola io sono stata allevata a caviale dalla mia nonna, che tutte le mattine mi veniva a trovare, eravamo in Svizzera in vacanza, tutte le mattine mi veniva a trovare e mi portava per colazione una pappalina piccolina di caviale molossol, beluga, buonissimo. E quindi io ho cominciato a mangiarlo, mi sono abituata così. E il caviale mi è sempre piaciuto tanto perché è, a parte, buonissimo e poi è lusso sfrenato, è la cosa più preziosa da mangiare che c'è. E io, che sono generosa solitamente, il caviale non lo divido volentieri con nessuno, mi piace essere in due, io e lui, cioè mangiarlo da sola in pace Quando lo trovo in contrabbando, adesso mi piace ancora di più, perché oltre al gusto del lusso e tutto, c'è anche il proibito, poi quello di contrabbando è buonissimo. E poi, sempre continuando con questa mia passione del pesce sottosale o in salamoia, ho incontrato verso i 23 anni un uomo che mi corteggiava a colpi di bottarga, perché lì in Sardegna, ero in Sardegna, ho scoperto la bottarga, che mi era piaciuta moltissimo anche lei, essendo questa cosa pesce e sale. E lui, che era un po' grezzone così, aveva capito che quello era un mio punto debole, e quindi invece che regalarmi mazzi di fiori, mi regalava dei mazzi di bottarga. E io le mangiavo, profumavo di bottarga, da gran che ne mangiavo, profumavo, è una parola grossa. E poi, e quindi lui, che era, insomma, ci ha provato, però non ci è riuscito. Io mi sono mangiata tutta la bottarga e non ci siamo mai fidanzati, mai. E così, senza sapere che poi mi sarebbe successo questa cosa di questo innamoramento per il siciliano delle acciughe, sono arrivata a Sciacca in Sicilia, dove fanno le acciughe più buone del mondo, perché sono i siciliani che hanno insegnato agli spagnoli, quando sono emigrati in Spagna, a trattare il pesce sottosale. Quindi le acciughe vanno poi lasciate in una salamoia per un anno intero, sempre spruzzate con la salamoia. E quindi i siciliani danno 10-0 agli spagnoli. E l'ultima volta che mi è venuto a trovare il siciliano, mi ha portato le sue acciughe della Sicilia e delle uova specialissime. E lui mi ha detto: tu, Maria, sei il mio uovo di Parisi. E allora gli ho chiesto: ma cos'è? E allora queste uova che mi ha portato si chiamano uova di Parisi. E questo signore Parisi dal 2000 segue un sogno. Ha fatto un pollaio con delle galline livornesi, che si chiamano anche le galline con le grandi ovaiole, perché sono le più, quelle che fanno le uova più buone di tutte. E lui alleva nel suo pollaio le galline solo esclusivamente a latte di mandorla, che anche questo, poi il latte di mandorla è una specialità siciliana. E il risultato è un uovo dal gusto come incantato. Non so, è una coppiata uova e acciughe pazzesca, come fra gli uomini si possono trovare delle coppie celebri indissolubili, come erano, non so, Mastroianni e la Loren, o Stanley e Olio, o Totò e De Filippo. Insomma, anche fra i cibi io credo che ci siano delle accoppiate vincenti, che sono, per esempio, non so, pane e salame, cioccolato e pere, pomodoro e basilico. Ma il piacere che ho provato mangiando le acciughe di Sciacca con le deliziose uova di Parisi supera tutto. Però non supera lo sguardo lontano del mio siciliano, che è come fosse lo sguardo che poteva avere Ulisse, io mi immagino. Anche se però non ho ancora capito se io sono la sua Penelope, o a Circe, o Calipso, o forse tutte e tre. O il cane Argo. O il cane Argo. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti, che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti. Realizzazione tecnica di Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti. A cura di Gloria Guerrera.